sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Questi di Roma Feyenoord, della Coppa e della partita, interessa poco o niente. Sono tanti tifosi olandesi, 5-6 mila, arrivati nella capitale al seguito della squadra che per tutta la giornata hanno ingaggiato una guerriglia con le forze dell'ordine. Prendono d'assalto il centro della città. In questa immagine, il Corriere TV, Piazza di Spagna e la sua scalinata diventano per un intero pomeriggio la curva di uno stadio. Urla, fumogeni, birra che scorre a fiumi, la fontana della barcaccia trasformata in una pattumiera dove galleggiano bottiglie e rifiuti. Sui bordi si ammassano i tifosi. Se non ci fosse da piangere, verrebbe quasi da fare dell'ironia. Se ieri avessero guardato la televisione, ma lo faranno sicuramente, sui canali satellitari, i guerriglieri dell'ISIS che stanno minacciando, stiamo arrivando a Roma, e fanno vedere i loro cortei con i camion sgangherati, ma però ben determinati a venire a mettere a ferro e fuoco la città eterna, avrebbero pensato, cioè, beh, ma perché fare tanta fatica? È così facile arrivare a Roma, possiamo farlo tranquillamente. Si arriva con dei voli charter a migliaia, si scende in centro, si comincia a far casino già da un giorno. Io posso dire che di fronte a questa radio che sta dietro la stazione Termini, il giorno prima del grande evento di cui ormai tutti parliamo, ho visto questi signori tatuati, arrabbiati, scendere da un taxi, non pagare, anzi prendere a calci il taxi, e già era un giorno prima, già si capiva c'era qualcosa nell'aria. Tutti siamo accorti che a Roma qualcosa stava accadendo, già per una giornata Roma era sotto scacco di personaggi che giravano tranquillamente come se fosse casa loro, insultando, bevendo con bottiglie in mano. L'apoteosi è stata ieri, e mi sono trovato a Villa Borghese con mio figlio Tommy, improvvisamente ho visto un esercito di migliaia di persone, tutti inquadrati, facevano veramente paura, passare attraverso la rotonda di Villa Borghese. Chi conosce la zona, un posto dove passano le mamme con le carrozzine, i signori in bicicletta, la gente con i pattini a rotello, è il luogo in cui c'è il massimo relax e la massima attenzione alla quiete del centro della città. Beh, c'era un corteo di migliaia di assatanati, erano migliaia, facevano paura, tiravano bottiglie, facevano casino, e c'era uno sparuto quanto disperato drappello di poliziotti in assetto di guerriglia che cercano di arginarli, fumo e bombe a mano. E io a quel punto ho fatto testa coda e sono tornato indietro. Una città è stata impossibile da attraversare per tutta la giornata di ieri. Fino a ieri sera tardi, verso le 23.30, il buon Fabrizio Intonti ha visto devastare una pizzeria in cui si trovava lui, alle 23.30, una pizzeria, penso quartiere Esquilino, in cui hanno rovesciato i tavoli dopo aver mangiato e se ne sono andati. Questi signori sono stati riaccompagnati tranquillamente ai loro mezzi e oggi se ne staranno a casa loro a ridere e sghignazzare della città messa a ferro e fuoco. Secondo voi questo sarebbe potuto accadere in qualsiasi altra civile capitale europea? 800 24 00 24. Molti negozi del centro sono costretti a chiudere, i teppisti si scagliano contro le forze dell'ordine, alcuni agenti vengono feriti, diversi tifosi finiscono in manette. Ma Roma è ostaggio dei vandali olandesi già dalla notte scorsa. Campo dei Fiori viene invasa dai tifosi. Ubriachi, fuori controllo, come questo ragazzo, si avvicina ad un gruppo di amici, si volta e scaglia una bottiglia contro le forze dell'ordine. Vogliono distruggere e devastare tutto quanto capiti a tiro. Un cartello stradale lanciato come un frisbee, transenne scagliate contro un'edicola. Accadeva la notte scorsa, una furia che con il passare delle ore non si è esaurita. A cambiare sono solo le piazze dove gli olandesi seminano panico e devastazione. 800 24 00 24, secondo voi perché accadono cose del genere? Poi c'è lo scarico delle responsabilità, il sindaco dice colpa del prefetto, il prefetto probabilmente dirà che ha fatto il possibile, vero, stringeva il cuore vedere questi poliziotti, padri di famiglia, con tutte le cose che si sono dette più volte, stare lì in piazza a fronteggiare gli sfaccendati ubriachi che pisciavano dentro la fontana del Bernini, che si trascinavano in una piazza completamente la loro, Piazza di Spagna, che è sempre piena, la scalinata di Trinità dei Monti è sempre gremita di persone, era un deserto, era un immondezzaio, con queste persone che tranquillamente rompevano, spaccavano, tiravano bottiglie, fronteggiavano i poliziotti, chissà perché, non c'era un motivo di ideologico, non c'era una contrapposizione di nessun tipo, non c'era nessun tipo di antagonismo, non c'era un motivo sociale, non c'era nemmeno una sorta di protesta generalizzata, niente, la gente non aveva niente da fare, si era ubriacata e considerava che Roma potesse essere tranquillamente la palestra per lo sfogo del loro desiderio di far casino, il puro casino di chi non ha nulla da fare, di chi pensa che rompere, distruggere è una divertente maniera per passare il tempo. Elisa, buongiorno. Buongiorno, io sono avvilita, demoralizzata, non ho parole, avendo letto il giornale e sentendo poi lei. Ma che cosa si può fare? Possibile che non c'è nessun rimedio contro tutto questo? Poi quando ha detto anche dell'ISIS, certo, se quelli hanno visto come sono andate le cose, gli sembrerà un gioco da ragazzi. Ma che cosa possiamo fare? Che cosa, no, a me sembra paradossale, mi perdoni Elisa, poi la faccio continuare. Paradossale che sono giorni che ci dicono è tutto sotto controllo, Roma è una città presidiata, quando c'era paura che arrivassero a fare gli attentati sotto la cappella di San Pietro, tutti dicono no, tranquilli. Non lo so, i droni volano su Roma, ma quattro assatanati sfaccendati totalmente, poi camminavano per strada come zombie, sono soltanto ubriachi che camminavano per strada come zombie, gente anche abbastanza, diciamo, inerme da quel punto di vista, non inermi perché erano tanti, erano migliaia, le immagini, migliaia di persone arrabbiate ma totalmente irrazionali, a cui non si può nemmeno farli ragionare perché erano ubriachi fatti. Prego Elisa, continua. Ma se fosse successo a Londra, a Parigi, che cosa avrebbero fatto? Come noi sarebbero stati così, soltanto a guardare? Molto di più, sono stati riaccompagnati gentilmente, prima allo stadio con gli autobus della municipalità e poi penso ai loro reciproci aeroporti o stazioni di autobus, cioè sono andati tranquillamente, sono stati arrestati quelli che naturalmente sono stati presi in flagranza di reato, ma gli altri non so dove siano, so che in altri paesi per cose del genere le persone vengono messe in galera, ci stanno vari mesi. Andiamo avanti con il nostro ospite Dottor Nicola Ferrigni, buongiorno. Buongiorno. È un sociologo, ricercatore sociale, autore insieme a Roberto Massucci del libro C'era una volta all'Ultra, Eurilink, edizioni 2013. Nella sua esperienza e nella sua attenzione, ci sono episodi paragonabili a quello che è accaduto a Roma ieri, forse non cruento dal punto di vista, non ci sono state vittime umane, se Dio vuole, però una sorta di così spudorato e sfacciato sacco di una città, l'ha mai visto? Sì, guardi, non è questo il primo caso, quindi non soltanto in Italia, a Roma questo è accaduto, se qui parliamo di, chiamiamole anche ultra, ma non sono di fatto ultra, a mio avviso, che sono dei violenti, a prescindere sono dei criminali, quello è il termine esatto, che si considerano anche essere un po' gli ultimi hooligan d'Europa e sono, ricordiamolo, cioè sono dei giovani anche molto, cioè io ho letto anche i risultati ieri, l'età massima dei tifosi condannati è di 28 anni, quindi anche molto giovani e sono dei robot fuori controllo, cioè sono dei giovani che provengono dalla cultura dei gabber, no? Che quindi allora a volte gabber nati dalla musica hardcore, quindi antenati dalla tecnica, quindi hanno alcol per caricarsi prima degli scontri, droga, estasi, anfetamine, robot fuori controllo che attaccano subito in gruppo e scappano. Quindi, infatti, dottor Ferrini, l'impressione che ho avuto ieri vedendolo proprio di persone è proprio che erano esseri umani fuori dal controllo, era anche impossibile, come accade nelle manifestazioni, un minimo di ragionamento, non c'era nulla da fare, prendevano manganellate ma finché non erano a terra e continuavano a reagire proprio come persone fuori di sé, era un po' fuori controllo, ecco, per questo motivo, cioè sono davvero delle persone incontrollabili e quindi scaricare completamente la colpa è sempre la gestione di queste cose sulla polizia, a mio avviso è davvero una... Ma la polizia pensa che ha fatto egregiamente il suo lavoro, più di così non potrà fare. Un lavoro egregio, eccellente, e dalla due giorni che ha visto coinvolti oltre 1000 forze di polizia, con un lavoro eccellente, e a volte si va anche sul semplicismo, a mio avviso, anche di interpretazione di questi fenomeni, cioè gestire una situazione del genere in pieno centro, anche in pieno giorno, come è accaduto il giorno prima già a Campo dei Fiori, che è cominciato già dal pomeriggio, no, questa ondata, davvero non è facile, perché immaginiamo anche il controllo in pieno giorno con delle cariche in mezzo alla gente comune, quali danni può a sua volta provocare, quali conseguenze ben più gravi. Abbiamo sottolineato, dottore, è una città dove c'è già un centro storico molto particolare, di una città frequentata da turisti, è una città molto difficile, non a caso quando ci sono manifestazioni di tipo politico avvengono comunque in aree ben circoscritte dove è più facile la manovra. Campo dei Fiori è un dedalo di viuzze, è pieno di luoghi dove la gente si siede a prendere l'aperitivo, sembra quasi un presepe, non è certo il posto adatto in cui si può fronteggiare una folla totalmente irrazionale che non sente nemmeno le botte alla fine. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletti e buongiorno a Fabrizio Intonti. Guardi, io se posso dire la mia, ho intenzione di dire la mia anche da tifoso, perché io seguo il calcio, tra l'altro sono tifoso della Lazio, insomma, spettacoli del genere fanno male, però io non... Io penso che l'Italia da qualche tempo, ma da un po' tutti gli altri, dalle persone, insomma, gli altri abitanti dell'Europa, ma non solo dell'Europa, sia un po' il paese della cuccagna, cioè chi viene fa come gli pare. Cioè, lei ha l'impressione che questo già particolare tipo di sostenitori, non possiamo chiamarli tifosi, sono d'accordo, sapevano già che in Italia potevano venire a fare il comodo loro, girava già quel volantino con attaccato dappertutto della lupa decapitata di un tifoso olandese quasi vestito da guerrigliero dell'ISIS con un coltello in mano che taglia la testa alla lupa, cioè, sembrava, come vede, la similitudine rispetto all'aspetto più ormai noto della violenza era anche ben evidente, venivano a far casino, a farne tanto. Infatti poi io dico sempre una cosa, cioè bisogna anche fare capire noi italiani cosa vogliamo, perché noi critichiamo l'operato della polizia, c'è anche quel film bellissimo ACAP, certo. Our Cops Are Bastards, cioè, ma ieri ho visto dei poliziotti che facevano il loro dovere, cioè, meno male che c'erano loro. Però dobbiamo capire quello che vogliamo, perché la gente era terrorizzata, la gente del centro di Roma era terrorizzata, proprio era terrore puro, non esisteva, perché era irrazionale, chiunque poteva passarci in mezzo. E ho visto poliziotti feriti, poliziotti anche in borghese, nel senso che intervenivano perché erano lì, perché poi erano anche pochi rispetto alla massa delle persone. Ci fermiamo soltanto un istante per dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo con i nostri ascoltatori rispetto ai fatti di Roma una valutazione dal vostro punto di vista. Melog, cronache meridiane. Sono davvero furioso, inaccettabile una gestione della sicurezza da parte dei vertici nazionali nella nostra capitale che permetta a dei barbari di mettere a ferro e fuoco il cuore della capitale d'Italia. Roma devastata e ferita, in contatto con prefetto, questore e ambasciatore d'Olanda, non finisce qui, scrive. Il sindaco di Roma è indignato, ma dov'era l'altra mattina il sindaco di Roma quando già questi signori giravano per Roma? Non ho visto prese di posizione ufficiali da parte della municipalità su quello che stava accadendo, era prevedibile, qualcuno doveva aspettarselo. Poi leggo qualche messaggio, fanno paragoni secondo me che non stanno nemmeno in piedi con i fatti della Diaz a Genova, con altre manifestazioni operaie o manifestazioni tipo politiche. Qua la polizia non è che interveniva nell'ordine pubblico in una manifestazione autorizzata o no, difendeva i cittadini da quello che era un vero e proprio attacco da parte di gruppi organizzati di stranieri che arrivavano a Roma e per far casino, per attaccare. È proprio un confronto che non regge, e questi erano venuti con la stessa intenzione, non di manifestare, ma di prendere in carico la città, fare quello che volevano, mangiare, bere, far casino, ubriacarsi, divertirsi come fosse un parco giochi. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Suo punto di vista. Allora, il mio punto di vista è che qualsiasi idiota di qualsiasi provenienza si sente autorizzato a venire qui a fare quello che vuole, certo dell'impunità. E questo vale per qualsiasi latitudine, quindi o decidiamo che chi legifera, perché da lì si deve partire, legifera a favore dell'ordine dei cittadini e quindi che le forze dell'ordine sono delegate per mantenere l'ordine e quindi hanno carta bianca per mantenere l'ordine. Il problema è che non è così, c'è uno scaricabarile e si parte che il poliziotto o il carabiniere di turno, prima di prendere qualsiasi iniziativa, ci pensa 3.000 volte, perché per bene che gli vada viene denunciato e si deve difendere. Sì, io vedo che già la rete è piena, visto che ormai tutti hanno uno smartphone, di filmati, vediamo tutto, abbiamo visto tutto, non c'è particolare che ci manca, ma io prevedo sarà qualcuno che dirà cattivi poliziotti hanno picchiato i poveri ragazzi, ci sarà anche questo a questo punto di vista, perché vedrete che anche il rischio è quello che poi guardando e riguardando si alza quello che dice ma vedi è stata un'azione violenta, non è stata un'azione violenta, è stata una lecita difesa dei cittadini che in quel momento non avevano proprio nessuna voglia e nessun bisogno di essere attaccati da queste persone che arrivavano dall'Olanda. Altro punto di vista, Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io per lavoro faccio il poliziotto, quindi insomma parlo con un minimo di cognizione di causa. Ecco, ci dice il suo punto di vista, lei ieri ha partecipato diciamo alle azioni oppure... No. Ecco, però avrà visto come tutti noi, ci dà un giudizio di quello che è accaduto dal punto di vista proprio di chi mantiene l'ordine o è preposto a mantenerlo? Ma diciamo che diventa molto difficile prevedere flussi di persone che vengono diciamo in Italia e quindi poi sono libere di girare in città. Quello che è sicuro è che l'ordine pubblico negli ultimi anni sta risentendo diciamo dei tagli. Che la Repubblica sostanzialmente insomma, è molto attenta a tutto quello che succede, per cui anche chi dispone il personale sta sempre attento a non dare l'impressione insomma, di città militarizzate, eccetera. Beh, però ieri quello successo ieri non è paragonabile. È d'accordo lei che non è paragonabile a qualsiasi manifestazione politica o di qualunque tipo? No, era un attacco vero e proprio. Questo sicuramente, perché non c'è diciamo nessun tipo di organizzazione, quindi la previsione diventa difficile. Ma non c'era manco possibilità quello di negoziazione. Quello che è facile prevedere però è che alcuni strumenti che in Italia non usiamo più, e mi riferisco a polizia a cavallo, che in altre nazioni hanno un'enorme efficacia e in Italia appunto non vengono utilizzate, perché quando diciamo si utilizzano strumenti del genere l'impressione e eventualmente anche i danni collaterali possono essere probabilmente più gravi di ecco, mi dia un parere tecnico, Luca, visto che io mi fido molto diciamo delle competenze degli ascoltatori, molte volte non ho nemmeno bisogno di chiamare ospiti specializzati, il pubblico mi supporta. Dal suo punto di vista, quali erano gli strumenti ieri che sarebbero stati efficaci contro quella folla? Perché tutti dicono sì, ma cosa fanno col manganello di fronte a un assatanato ubriaco che pesa 150 kg, che più gliene dai e più sta in piedi? Qual era lo strumento antisommossa che sarebbe stato dovuto impiegare? Gli idranti? Non so bene esattamente, lei dice la polizia a cavallo, ma per capire. Allora, prima di tutto a noi manca diciamo uno strumento che tante polizie europee già hanno, che sono per esempio i gas capsicum, che insomma hanno una grande efficacia anche in persone che stanno come quelli di ieri fuori di testa, ubriachi, occhi salti. Che effetto hanno? Beh, hanno l'effetto diciamo di rendere inerme una persona anche sotto influenza di alcol, di sostanze stupefacenti, perché diciamo crea come posso dire problemi alla lacrimazione, quindi c'è un lacrimogeno un pochino più specifico, ma Piazza di Spagna è popolata, c'erano negozi, c'erano persone, è chiaro, non è pericoloso. Anche per gli altri abitanti questo tipo di intervento? E poi bisogna decidere quali sono le priorità, è chiaro che è un problema, ma Piazza di Spagna alla fine era completamente vuota o quasi. Sì, erano scappati via tutti perché tiravano giù le saracinesche, sembrava la guerra, guardatevi le immagini. Poi ripeto, l'effetto deterrente di un reparto mobile, reparto diciamo addetto ai servizi d'ordine pubblico numeroso, che mi pare ieri di non aver visto, e della polizia a cavallo, perché torno a ripetere, in Europa viene utilizzata esclusivamente o quasi per i servizi d'ordine pubblico, mentre in Italia la utilizziamo per fare delle pattuglie nei parchi che insomma lasciano un po'. Sì, vada Villa Borghese in coppia per fare, diciamo, una cosa folcloristica. Insomma, è una cosa più di rappresentanza. Quindi un attacco a cavallo, l'attacco della cavalleria, ancora la carica della cavalleria è la maniera più efficace per disperdere una folla. Beh, ci credo. Ah, sicuramente questo lo è. Adesso poi utilizzarla in un centro storico come quello romano non è una cosa. Beh, le carrozzelle ci stanno a Roma, potremmo passarci anche uno squadrone di poliziotti a cavallo. Ma certo, l'abbiamo fatto per tantissimi anni, poi insomma per motivi vari. In quel caso cosa fa la polizia? Fa una carica vera e propria, bastano i cavalli per spaventare. È chiaro, certo. Non occorre avere, diciamo, anche, che ne so, manganelli, lance, cose, no, solo cavalli. C'hanno degli scudisci, vengono così chiamati in gergo, manganelli più diciamo lunghi. Il cavaliere al cavallo e lo scudisce, quindi è efficace. Sì, tra l'altro, guardi, per attrezzarli per il G8 di Genova, dove non mai utilizzati, sono stati spesi anche un sacco di soldi proprio per attrezzature specifiche dell'ordine pubblico. Quindi gli scudisci ci sono nelle armerie della polizia, pronti? Certo che ci sono scudisci, ci sono tutte le protezioni per i cavalli, c'è tutta un'attrezzatura che viene utilizzata anche dal personale che sta sopra al cavallo proprio per i servizi d'ordine pubblico. Quindi noi avremo la disponibilità di avere un piccolo squadrone di cavalli corazzati con poliziotti con scudisci che potrebbero essere efficaci. Perché non vengono usati secondo lei? Perché chi deve poi rispondere a eventuali sembrano cattivi dopo preferisce ma ripeto, soprattutto l'effetto deterrenza, perché trovarsi davanti anche che la zoccolata 50, di un cavallo non è 50 non è cavalli schierati è insomma un bel effetto deterrente. La ringrazio Luca, è stato importante perché nessuno aveva detto finora questa cosa qua. Io intanto c'ho altri ascoltatori, quanto mi manca per chiudere? 30 secondi, quindi posso solo salutare intanto Nicola Ferrigni che ci ha supportato, sociologo e ricercatore sociale. Ringrazio gli ascoltatori, soprattutto ringrazio questo poliziotto che ci ha chiamato, ci ha detto qualcosa che non sapevamo, che abbiamo pronti a disposizione le attrezzature per armare un plotone a cavallo, che in fondo non sarebbe niente di letale, ma sarebbe forte come effetto deterrente. Spero che qualcuno ci abbia ascoltato e su questo risponda. A lunedì.